Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas. Traduzione di Marisa Zini. Il locandiere accolse i viaggiatori con il candeliere in una mano e la berretta di cotone nell'altra. Voleva sistemare i due viaggiatori ciascuno in una bella stanza. Purtroppo le due stanze erano rispettivamente alle estremità opposte dell'albergo. D'Artagnan e Athos rifiutarono, affermando che si sarebbero coricati nella sala comune, ognuno su un materasso steso per terra. Avevano appena sistemato i letti e barricata la porta dal di dentro, che fu picchiato all'imposta del cortile. Chiesero chi fosse mai, riconobbero le voci dei loro servitori e aprirono. Infatti erano Planchet e Grimaud. «Grimaud basterà per sorvegliare i cavalli», disse Planchet. «Se loro signori vogliono, io mi coricherò ai piedi della porta, così saranno sicuri che nessuno giungerà fino a loro». «Su, vieni, hai ragione», disse D'Artagnan. «La faccia dell'oste non mi va, è troppo melliflua». «E neppure a me», soggiunse Athos. Planchet si issò dalla finestra, si installò ai piedi della porta mentre Grimaud andava a chiudersi nella scuderia, assicurando che alle 5 del mattino lui e i 4 cavalli sarebbero stati pronti. La notte passò abbastanza tranquilla. Qualcuno tentò bensì verso le 2 di aprire la porta, ma siccome Planchet si svegliò di soprassalto e gridò «Chi va là?», fu risposto che si trattava di uno sbaglio e ci si allontanò. Alle 4 della mattina si udì nelle scuderie un grande fracasso. Grimaud aveva voluto svegliare gli stallieri e questi lo picchiavano. Aperta la finestra, fu visto il povero diavolo svenuto con la testa spaccata dal colpo di manico di un forcone. Planchet scese in cortile e volle sellare i cavalli, ma questi erano stremati. Soltanto quello di Mousqueton, che il giorno prima aveva galoppato senza cavaliere per 5 o 6 ore, sarebbe stato in grado di continuare la strada. Ma, per un inconcepibile errore, il veterinario che avevano fatto chiamare, invece di salassare il cavallo del locandiere, aveva salassato quello di Mousqueton. La cosa cominciava a diventare preoccupante. Tutti quegli incidenti che si susseguivano erano forse il risultato del caso, ma potevano essere benissimo frutto di un complotto. Athos e D'Artagnan uscirono, mentre Planchet andava a informarsi se nei dintorni ci fossero 3 cavalli in vendita. C'erano alla porta 2 cavalli già equipaggiati, freschi e vigorosi, facevano proprio al caso. Planchet chiese dei proprietari. Gli risposero che questi avevano passato la notte alla locanda e in quel momento stavano regolando il conto con il padrone. Anche Athos scese per pagare, mentre D'Artagnan e Planchet stavano sul portone. In quello stesso momento, 4 individui armati fino ai denti entrarono dalle porte laterali e si buttarono su di lui. «Sono preso!» gridò Athos con tutta la forza dei suoi polmoni. «Scappa, D'Artagnan! Forza, via!» e sparò 2 colpi di pistola. D'Artagnan e Planchet non se lo fecero ripetere 2 volte. Staccarono i cavalli fermi davanti alla porta, vi balzarono su e, affondandovi gli speroni nel ventre, partirono di gran galoppo. «Valoroso Athos!» mormorò D'Artagnan. «E pensare che dobbiamo abbandonarlo. D'altronde ci aspetterà forse la stessa cosa 2 passi da qui. Avanti, Planchet, avanti, sei un bravo uomo». «Ve l'ho detto, signore», rispose Planchet. «I piccardi si riconoscono all'uso. Del resto qui sono nel mio paese, il che mi eccita». E tutti e 2, spronando a più non posso, giunsero a Saint-Omer in un sol tratto. Colà fecero prendere fiato ai cavalli, tenendo le briglie infilate nel braccio per paura di qualche incidente, e mangiarono un boccone alla svelta, in piedi sulla strada, dopodiché ripartirono. A un centinaio di passi dalle porte di Calais, il cavallo di D'Artagnan stramazzò, né ci fu più verso di rialzarlo. Il sangue gli usciva dal naso e dagli occhi. Restava quello di Planchet, che però si era fermato, e non fu più possibile farlo muovere. Per fortuna, come abbiamo detto, erano a 100 passi dalla città. Lasciarono sulla strada maestra le due cavalcature e corsero al porto. Planchet fece notare al padrone un gentiluomo che stava giungendo con il proprio domestico e che li precedeva soltanto di una 50 di passi. Si accostarono rapidamente a costui che sembrava assai affaccendato. Aveva gli stivali impolverati e si informava se potesse passare immediatamente in Inghilterra. Niente di più facile, rispose il padrone d'un veliero pronto a salpare, ma stamane è arrivato l'ordine di non lasciar partire nessuno senza un permesso esplicito del cardinale. Questo permesso ce l'ho, disse il gentiluomo traendo un foglio di tasca. Eccolo. Fatelo vistare dal governatore del porto, rispose il padrone. Dove lo troverò? Nella sua casa di campagna, a un quarto di lega dalla città. Benissimo, fece il gentiluomo. E seguito dal domestico si avviò verso la casa di campagna del governatore. D'Artagnan e Planchet lo seguirono a 500 passi di distanza. Appena fuori città, D'Artagnan affrettò il passo e raggiunse il gentiluomo mentre entrava in un boschetto. «Signore, mi pare che abbiate gran fretta», gli disse. «Una fretta incredibile, signore. Ne sono spiacentissimo, perché avendo anch'io una grandissima fretta, volevo pregarvi di rendermi un favore. Quale? Darmi la precedenza. Impossibile, disse il gentiluomo. Ho fatto 60 leghe in 44 ore e domani a mezzogiorno devo essere a Londra. Ho fatto la stessa strada in 40 ore e domani alle 10 del mattino devo essere a Londra. Dolentissimo, signore, ma sono arrivato primo e non mi imbarcherò secondo. Dolentissimo, signore, ma sono arrivato secondo e mi imbarcherò primo. Servizio del re, disse il gentiluomo. Servizio di me stesso, disse D'Artagnan. Ma voi state cercando di attaccar briga, a quanto pare. Perdinci! E cos'altro volete che stia cercando? Voglio l'ordine di cui siete latore, visto che non ce l'ho e me ne occorre uno. «Scherzate, suppongo», disse il gentiluomo. «Non scherzo mai». «Lasciatemi passare! Non passerete!» disse D'Artagnan. Il gentiluomo trasse la spada e si precipitò su D'Artagnan, ma aveva non poco filo da torcere. In 3 secondi D'Artagnan gli menò 3 fendenti, dicendo a ogni colpo «Uno per Athos, uno per Porthos, uno per Aramis». Al 3° colpo il gentiluomo stramazzò come un masso. D'Artagnan lo credette morto o perlomeno svenuto e gli si accostò per strappargli il permesso. Ma mentre stendeva il braccio per frugarlo, il ferito, che non aveva mollato la spada, gli vibrò un colpo di punta nel petto dicendo «Uno per voi e uno per me, all'ultimo il buono!» esclamò furioso D'Artagnan, inchiodandolo al suolo con una 4ª sciabolata al ventre. Questa volta il gentiluomo chiuse gli occhi e svenne. D'Artagnan gli frugò in tasca dove aveva veduto riporre l'ordine di imbarco e lo prese. Era intestato al conte di Ward. Poi, lanciando un'ultima occhiata al bel giovanotto che aveva al massimo 25 anni e che lasciava lì steso, privo di sensi e forse morto, sospirò sullo strano destino che spinge gli uomini a uccidersi a vicenda per gli interessi di persone loro estranee, le quali spesso ne ignorano perfino l'esistenza. D'Artagnan e Planchet si incamminarono a grandi passi verso la casa di campagna del governatore del porto. Venne annunciato il signor Conte di Ward. Fu introdotto D'Artagnan. «Avete un ordine firmato dal cardinale?» chiese il governatore. «Sì, signore», rispose D'Artagnan. «Eccolo». «Ah, bene. È in regola e con tanto di raccomandazione», disse il governatore. È semplicissimo, rispose D'Artagnan. Sono tra i suoi più fidi. A quanto pare, Sua Eminenza vuole impedire a qualcuno di giungere in Inghilterra. Sì, un certo D'Artagnan, un gentiluomo bearnese che è partito da Parigi con tre suoi amici nell'intento di raggiungere Londra. Lo conoscete personalmente? Chiese il governatore. E D'Artagnan diede dettagliatamente i connotati del conte di Vardes e del suo domestico. Sua Eminenza può stare tranquilla, disse il governatore. Saranno ricondotti a Parigi sotto buona scorta. Così facendo, signor governatore, rispose D'Artagnan, vi meriterete la riconoscenza del cardinale. E lieto di tale assicurazione, il governatore vistò il lasciapassare e lo consegnò a D'Artagnan. Una volta fuori, questi e Planchet presero la corsa e, evitando il bosco, raggiunsero il bastimento che era sulle mosse di salpare. Il padrone aspettava. «Ebbene», disse, scorgendo D'Artagnan. «Ecco il mio lasciapassare vistato», rispose quegli. «E quell'altro gentiluomo? Oggi non partirà, ma state tranquillo, pagherò il passaggio per noi due. In tal caso partiamo, partiamo», ripeté D'Artagnan. E saltò con Planchet nel canotto. Dopo 5 minuti erano a bordo. D'Artagnan era a pezzi per la stanchezza. Gli stesero sul ponte un materasso. Vi si buttò sopra e si addormentò. Alle 10 il bastimento gettava l'ancora nel porto di Dover. Alle 10:30 D'Artagnan metteva piede sul suolo inglese, esclamando «Eccomi, finalmente!» Ma non era tutto. Bisognava raggiungere Londra. Presero ciascuno un cavallo da viaggio, in 4 ore giunsero alle porte della capitale. D'Artagnan non conosceva Londra e non sapeva una parola d'inglese, ma scrisse il nome di Buckingham su un foglietto e tutti gli indicarono il palazzo del duca. Il duca si trovava a caccia con il re a Windsor. D'Artagnan chiese del cameriere di fiducia del duca, il quale, avendolo accompagnato in tutti i viaggi, parlava correntemente il francese. Gli disse che veniva da Parigi per una questione di vita o di morte e che doveva parlare al suo padrone immediatamente. La sincerità con cui D'Artagnan parlava convinse Patrice, così si chiamava il cameriere del duca. Costui fece sellare 2 cavalli e si incaricò di accompagnare la giovane guardia. Giunsero al castello e si informarono. Il re e Buckingham cacciavano gli uccelli in certe paludi distanti di lì 2 o 3 leghe. Chi devo annunciare a sua grazia il duca? Il giovanotto che una sera attaccò briga con lui sul Pont Neuf, di fronte alla Samaritan. Strana raccomandazione. Patrice spronò il cavallo al galoppo, raggiunse il duca e nei termini suddetti gli riferì che un messaggero l'aspettava. Buckingham, riconosciuta di lontano l'uniforme delle guardie, spronò il cavallo e venne dritto verso D'Artagnan. «È forse successa qualche disgrazia alla regina?» esclamò il duca manifestando tutto il suo pensiero e il suo amore in quella domanda. «Non credo. Tuttavia credo che ella corre qualche grande pericolo da cui vostra grazia soltanto può salvarla». «Io?» esclamò Buckingham. «Sarei tanto fortunato da poterle essere utile in qualcosa. Parlate, parlate! Prendete questa lettera. Chi mi manda questa lettera?» «Sua Maestà, suppongo». «Sua Maestà», disse Buckingham, facendosi così pallido che D'Artagnan credette che gli stesse per svenire, e ruppe il sigillo. «Santo cielo! Cosa ho letto!» esclamò il duca. «Patrice, dia Sua Maestà che la supplico molto umilmente di scusarmi, ma che un affare della massima importanza mi richiama a Londra. Venite, signore, venite!» Ed entrambi al galoppo ripresero la via della capitale. Lungo la strada, il duca si fece mettere al corrente da D'Artagnan non di tutto quanto era avvenuto, ma di ciò che lui sapeva. Associando quello che aveva udito dalle labbra del giovanotto ai propri ricordi personali, poté quindi farsi un'idea abbastanza esatta della gravità della situazione, di cui d'altronde la lettera della regina, per quanto breve e poco esplicita, gli dava la misura. Ma soprattutto lo stupiva che il cardinale, con l'interesse che aveva a non far mettere piede al giovane in Inghilterra, non fosse riuscito a trattenerlo per la strada. I cavalli filavano come il vento e in pochi minuti furono alle porte di Londra. D'Artagnan aveva pensato che giungendo in città il duca avrebbe rallentato l'andatura, ma non fu così. Egli continuò la strada sprombattuto, senza preoccuparsi di rovesciare quanti trovava sul suo cammino. Infatti, attraversando la City, capitarono due o tre incidenti. Buckingham però non volse neppure la testa per guardare che ne fosse di coloro che aveva mandato a gambe all'aria. D'Artagnan lo seguiva tra le grida che rassomigliavano assai a imprecazioni. Entrando nel cortile del palazzo, Buckingham balzò da cavallo e si lanciò verso la scalinata. Il duca camminava così svelto che D'Artagnan stentava a seguirlo. Attraversò una dopo l'altra parecchie sale di un'eleganza che i grandi signori di Francia neppure si sognavano. Nell'alcova c'era nascosta nella tappezzeria una porta che il duca aprì con una piccola chiave d'oro che egli portava appesa al collo con una catena dello stesso metallo. Per discrezione D'Artagnan era rimasto indietro, ma nel momento in cui oltrepassava la soglia di quella porta, Buckingham si volse e, vedendo l'esitazione del giovane, disse: «Venite, e se avete la fortuna di essere ammesso alla presenza di Sua Maestà, ditele ciò che avete veduto». Incoraggiato da tale invito, D'Artagnan seguì il duca, che si chiuse la porta alle spalle. Entrambi si trovarono in una cappelletta interamente tappezzata di seta di Persia intessuta d'oro, violentemente illuminata da una gran quantità di candele. Sopra una specie di altare e sotto un baldacchino di velluto azzurro, sormontato da piume bianche e rosse, c'era un ritratto di grandezza naturale raffigurante Anna d'Austria, d'una tale somiglianza che D'Artagnan lanciò un grido di stupore. Si sarebbe creduto che la regina stesse per parlare. Sull'altare, sotto al ritratto, stava lo scrigno che racchiudeva i puntali di diamanti. Il duca si accostò all'altare, si inginocchiò come avrebbe potuto fare un prete dinanzi al Cristo. Poi aprì lo scrigno. «Ecco», disse traendone fuori un grosso nodo di nastro azzurro scintillante di diamanti. «Ecco i preziosi puntali con i quali avevo giurato di essere seppellito. La regina me li aveva donati, la regina me li riprende. La sua volontà, come quella di Dio, sia fatta in ogni cosa». Quindi baciò a uno quei puntali da cui doveva separarsi. A un tratto emise un urlo. «Che c'è?» chiese D'Artagnan inquieto. «Cosa vi succede, milord?» «C'è che tutto è perduto!» gridò Buckingham, diventando pallido come un morto. «Mancano due puntali, non ce ne sono che 10. Milord li ha perduti, oppure crede che glieli abbiano rubati. Me li hanno rubati, ed è stato il cardinale a fare il colpo. Se milord potesse supporre chi ha commesso il furto, forse sono ancora nelle mani di quella persona». «Aspettate, aspettate!» esclamò il duca. «L'unica volta che misi questi puntali fu al ballo del re, 8 giorni fa, a Windsor. La contessa di Winter, con la quale ero in rotta, mi si avvicinò a quel ballo. Quella riconciliazione era la vendetta di una donna gelosa. Quella donna è un agente del cardinale». «Ma dunque, ne ha in tutto il mondo!» esclamò D'Artagnan. «Oh sì, certo», disse Buckingham, digrignando i denti dalla collera. «Quando avrà luogo quel ballo? Lunedì prossimo. Ancora 5 giorni. È più di quanto ci occorre. Ho posto l'embargo su tutti i bastimenti che in questo momento si trovano nei porti di Sua Maestà. E senza uno speciale permesso, nessuno oserà levare le ancore. D'Artagnan guardò sbalordito quell'uomo che poneva l'illimitato potere di cui era investito dalla fiducia di un re al servizio dei propri amori. Dall'espressione della faccia del giovane, Buckingham ne capì il pensiero e sorrise. Gli è che Anna d'Austria è la mia vera regina. A una sua parola, tradirei il mio paese, tradirei il mio re, tradirei il mio Dio. D'Artagnan pensò con stupore a quali fragili e ignoti fili siano talvolta sospesi i destini di un popolo e la vita degli uomini. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.